Rassegna eventi. Eccoci qua. Ci sono, sì, sulla rassegna eventi di questa settimana. Bomba. Partiamo a bomba da martedì 17 aprile. Il collettivo Agraria Firenze presenta Eco Agraria Volume 2, giornata di agroecologia e gestione sostenibile del territorio. Ore 10, conferenze in Aula Magna. Rete semirurali, importanza, valorizzazione e conservazione della biodiversità in agricoltura. Antonio Belcari, professore ordinario di entomologia all'Università di Firenze, gli insetti e l'agricoltura, metodi di lotta biologica. Poi Andrea Gelfi, genuino clandestino, l'agroecologia come pratica politica. Per tutta la giornata, mercato contadino e delle autoproduzioni, zona Gazebi. Informiamoci in vista dell'incontro nazionale genuino clandestino a Firenze, che si terrà il 27, 28 e 29 aprile a Mondeggi Bene Comune, Fattorie Senza Padroni. Potete trovare l'evento su Facebook. Come collettivo d'agraria intendiamo affrontare in questa giornata temi come i metodi di lotta biologica e la biodiversità in agricoltura. Il tema dell'agroecologia e dell'agricoltura contadina rispettosa dell'ambiente può essere di grande aiuto nella riduzione dell'inquinamento di aria, terra e fiumi e per la conservazione delle risorse, che all'attuale stato di sfruttamento sono destinate ad esaurirsi rapidamente. Rilanciamo nell'occasione l'incontro nazionale di genuino clandestino a Firenze a fine mese. Scuola di Agrare, Piazzale delle Cascine 18, Firenze. Collettiva Gara di Firenze. Mercoledì 18, Università nella Rivoluzione, organizzato dal collettivo universitario autonomo Firenze, ore 17, piazza Filippo Brunelleschi. Qui in Rojava il futuro si costruisce veramente all'interno di queste mura. Il 18 aprile tre compagni della delegazione inviata da InfoAut al Kurdistan raccontano la loro esperienza con il sistema universitario in una società che sta portando avanti un processo rivoluzionario. Sempre mercoledì 18, cena sociale di Ateneo Libertario, organizzato appunto da Ateneo Libertario di Firenze, dalle ore 20:30 a Borgo Pinti 50 Rosso. Ritorno alla cena sociale dell'Ateneo Libertario, cena con prodotti biologici della rete Genuino Clandestino Firenze. Durante la cena sarà presentata la rete locale di Genuino Clandestino e della manifestazione nazionale 28 aprile in difesa di Mondeggi Bene Comune, all'interno della tre giorni nazionale di Genuino Clandestino, che si svolgerà proprio a Mondeggi. Posso dire una cosa? Sì? Scusa, questa cosa di Mondeggi tre giorni, volevo ricordare che ci sarà Radio Wombat, trasmetterà in diretta. Giusto, penso, è vero, tutto quello che vi perderete se non andrete ve lo potete trovare su Radio Wombat, che non implica di non andarci perché vi fa fatica, ma dovete andarci lo stesso. Viziamo, Solo per chi non può. 20-20 aprile alle ore 15:30 Piazza San Marco, corteo studentesco, sciopera l'alternanza, organizzato da CAS Firenze, collettivo antagonista studentesco. Leggo il comunicato. Vai, leggi il comunicato. Leggiamo il comunicato. Pensavano di poterci costringere a lavorare senza essere pagati. Pensavano di fregarci con le loro promesse, le loro esperienze formative e i loro fa curriculum. Gli è andata male. Continueremo a lottare perché è l'unica arma che abbiamo per farci ascoltare e per rifiutare il lavoro gratuito, senza tutele, che molto spesso dobbiamo pagare noi, tra il costo dei trasporti, dei pasti o altre spese, e grazie al quale guadagnano loro. La speranza che tutto questo ci aiuti in futuro a trovare un lavoro non ci convince. Le storie dei giovani che lavorano oggi sono tutte caratterizzate da salari da fame, ricatti e precarietà. Ci fa solo perdere tempo prezioso che potremmo usare per divertirci e per imparare le cose nel modo giusto e non come ci propongono loro, ovvero così da diventare delle macchine che gli servono per fare ancora più soldi. Non abbiamo paura del futuro, è il vostro futuro che ha paura di noi. Yeah! Continuiamo venerdì 20 all'occupazione di Viale Corsica alle ore 17, presentazione di Senza Tregua di e con Emilio Mentasti, più Concerto Benefit. Insieme all'autore del libro ripercorreremo la storia, breve ma densa di significato, dei comitati comunisti per il potere operaio, meglio noto come Senza Tregua, dal nome della rivista che pubblicavano. Questo gruppo fu attivo in Italia tra il 75 e il 76. Forse il gruppo all'interno di questa galassia variegata, che fu l'autonomia, che maggiormente mantenne la centralità del soggetto operaio sia nel dibattito che nei propri interventi. In contrasto anche con quella autonomia diffusa, che proprio in quegli anni cominciava ad organizzarsi al di fuori dei gruppi extraparlamentari, per Senza Tregua illegalità di massa volle infatti sempre dire prefigurazione di una nuova legalità determinata però dalla classe operaia. Nelle città in cui sorsero l'attività dei comitati fu molto intensa e variegata e sarebbe un errore appiattirla sui più noti fatti di sangue che li vide protagonisti. Una storia infine che ha avuto un importante svolgimento nella città di Firenze e che cercheremo di andare a ripercorrere. Dopo la presentazione, apericena Benefit, a seguire concerto con Ancora Vivi da Lucca, Come le Bestie, Hardcore Firenze, Siena. Venerdì 20 alla libreria Maia Koschi al CPA Firenze Sud dalle ore 19 l'autore del libro Salvatore Solano presenta La svolta borghese di Togliatti, il PC da Salerno alle elezioni politiche del 48, introduce il comitato comunista Fosco di Nucci. Ore 19 inizio presentazione, ore 21 scena, ore 23 Spinard Tribute Unity Session, Benefit presidio, no inch, no aeroporto. Il ricavato della giornata sarà destinato al presidio no inceneritore, no aeroporto della Piana. Dalle ore 20, il 20 aprile 2018 a Firenze, sempre all'Ateneo Libertario in via Borgo Pinti 50 Rosso, dalle ore 21 serata su. Antipsichiatria in Toscana, in ricordo del compagno Raffaele Roma Bonaccorsi, ex telefono viola di Milano, con proiezione del fumetto, attenzione, sorvegliare e compatire, dei video No Loco, Pietro di Alessandro Valente, di Corto Shock di Majorana, Filippetto, introduzione sull'esperienza del collettivo antipsichiatrico, Violetta Van Gogh e incontro con il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa. Precede alle ore 20 a pericena, per info coordinate dell'Ateneo Libertario di Firenze. Sabato 21 teatro in Polveriera a cura di Altro Teatro e Laboratorio Teatrale Polveriera. Dalle ore 17 la presentazione di Disegni Ribelli di Milena Prestia. Segue aperitivo e spettacolo teatrale. E arriviamo... Esatto. Sorry. Vuoi andare tu? No. Arriviamo a Brugole Merletti 2018, in quel dell'Emerson, sabato 21 e domenica 22 aprile. Il grande ritorno, due giorni di workshop pratici e mani in pasta. Per tutti i dettagli, gli orari e gli aggiornamenti, consultare doityourtrash.noblogs.org. Il programma è molto ricco, si fa una carrellata. Sì, fa un carrellino. Programma provvisoriosissimo, non riesco a dirlo, è un aggiornamento. Sabato 21 aprile, alimentatore da banco smontando un computer. Beh. Saldatura elettrico. Loop antenne per il radioascolto. Importante. L'arte di ripararsi la bici senza zen. Importante. Giusto. Ci si può incazzare, tipo. Giusto. Serpi Canaro e il cucito creativo. Yeah. Commodore 64, nostalgia. Bellissimo. Radio Wombat DJ's Contest. Bigiotteria da una bicicletta. Terremino digitale. Beh. Impianto luci di emergenza con il fotovoltaico recuperato. Saldatura e stagno. A stagno. 10 minute speech corner. Serata con DJ set soul, R&B, funk, gospel, modern e northern soul con Emerson Setter Sound System. Soul Division sul proprio impianto costruito. E ospiti da Bologna, Michele Coco e Fat Fabio da Bologna. Lo dice tutto. Vai. E questo era il sabato, è strapieno. La domenica è bellissimo perché c'è anche il treno elettrico. Circuit bending mattinee, bellissimo. No input mixing, bellissimo. Un sacco di roba, fighissimo. Dai, bellissimo. Viva Brugolo e Merletti. Viva Brugolo e Merletti. Poi? Sempre sabato 21, Compleone, Street Parade, Le strade sono nostre, organizzato da Occupazione Via del Leone. Per i 5 anni di Occupazione Via del Leone, 60-62. Una festa all'insegna del modo di stare assieme, di divertirsi e di fare arte includente che cancelli ogni barriera economica, sociale e razziale. Bene, andiamo su domenica 22, sempre periferia antirazzista, sport popolare, corteo, mercato e musica. Organizzato da IAM, iniziativa antagonista metropolitana. Saranno a breve annunciati gli ospiti speciali. Dalle ore 22, domenica 22 aprile, dalle ore 13 alle ore 16, Parco delle Medaglie d'Oro sulla via Baracca. Invitiamo tutti a partecipare ad una festa popolare costruita dal basso nel quartiere di Novoli, al Parco delle Medaglie d'Oro, appunto, per vivere insieme un territorio meticcio e resistente, dicendo chiaramente che qui non c'è posto per razzisti e fascisti, gli unici veri scenari a Firenze. Consapevoli che i responsabili dei problemi delle periferie fiorentine non sono gli stranieri, ma chi comanda nei palazzi. Per tutta la giornata, banchini informativi, editoria indipendente con Red Star Press, mercato contadino con Mondeggi Bene Comune, musica con Lu Turku from Seed City, alle ore 15 un calcio al razzista, primo torneo a calcio a 5, aperte le iscrizioni con numero di telefono. Che non so se vi dirò, sì. No. Tanto c'è tutto l'evento. Basta l'evento, sì, esatto. Ore 17, allenamento aperto e dimostrazione di pugilato della palestra popolare Gogo Rigacci, dello spazio IAM. Ore 19, passeggiata antirazzista nel quartiere, aspettando il corteo, 25 aprile di riscatto, per una nuova liberazione. Ore 20, cena popolare, e ore 21 si finisce con musica live e DJ set da Rifredi ad Afrin. Ottimo.